per la conversione di Ars, la lotta contro il lavoro festivo, le osterie e la bestemmia, i profanatori del giorno santo. Nel 1818, prima che avesse inizio il tempo dei lavori più importanti e più pesanti della campagna, la piccola chiesa di Ars appariva la domenica abbastanza frequentata e il nuovo pastore poté farsi qualche illusione sullo stato religioso della sua parrocchia. La Pasqua, è vera, gli aveva dato poche consolazioni. La maggior parte degli uomini non facevano la comunione annuale. Alcuni di loro erano già da 10, 15, 20 anni che non compivano quel dovere fondamentale. Ma quando giugno riportò le lunghe giornate, Don Vianney constatò con pena raddoppiata che l'umile navata si vuotava. Non c'era quasi più nessun giovane o uomo e anche le donne erano meno numerose del solito. Dov'erano gli altri? Fin dall'alba erano usciti con gli abiti da lavoro, con la faccia o la forca in spalla. Quale scoraggiamento in quelle tranquille mattine dedicate al Signore, nell'udire il rumore dei carri che andavano nei campi, nell'udire i colpi di martello battuti sull'incudine, perché il fabbro non poteva riposare, dato che gli attrezzi di lavoro non riposavano. Che ironiche risposte all'invito del povero campanile d'Ars. I profanatori della domenica lavoravano finché gli pareva, poi, tornati a casa, la maggior parte si vestiva con gli abiti festivi. Alcuni andavano a rintanarsi nelle osterie. Il paese, che contava 200 abitanti, era orgoglioso di possederne 4, dove, dopo aver parlato d'affari, di vendita e di mercati, bevevano fino all'ubriachezza. Altri, giovani e ragazze, che non avevano per il capo se non i giochi e i divertimenti, uomini e donne ed anche vecchi sdentati e mezzi ciechi, si riunivano sotto i noci della piazza proprio vicino a Camposanto, dove al di là del muricciolo basso si vedevano le croci e le tombe, e al suono d'un organetto si mettevano a ballare. E fino a notte si udivano canti, frasi triviali, accompagnate da grasse risate e da bestemmie. Purtroppo Don Vianney poteva vedere e udire tutto ciò, perché il suo orto non aveva altra chiusura che una siepe. Versò lacrime amare. La sua desolazione giunse al colmo quando apprese che tali disordini duravano fino all'autunno e che nella festa del patrono di Ars, San Sisto, sarebbe stato anche peggio, perché era usanza fare allora la festa annuale, con baracconi, saltimbanchi e suonatori. Peggio ancora, Ars, ritenuto posto di allegria, era il luogo d'appuntamento dei ballerini e delle ballerine dei dintorni. Come mai ad Ars c'era tanta febbre di divertimento? Ars è posto pressappoco a uguale distanza dai confini della Saone e dagli stagni della Dombe. In questa zona il clima è snervante. Don Vianney stesso tremava per il timore di dannarsi. Gli abitanti hanno un accento languido che assomiglia a un canto e tradisce una volontà assopita. Sono avidi di benessere e ardenti nel piacere. E se non c'è una forte dose di fede, si lasciano facilmente travolgere dalla vita sensuale. Ora, noi sappiamo quanta fede ci fosse in quel paese attorno al 1818. Anche gli abitanti del castello non si sorvegliavano sufficientemente. I divertimenti più eleganti che si permettevano erano di cattivo esempio per la massa contadina. La contessina d'Ars, persona rigida come nessun'altra, non trovava sconveniente che, quando oltre la sua famiglia riceveva i Sibens e i Giletti Valbrese, si ballasse nella sua abitazione. Povero Don Vianney, mille occasioni di peccato si offrivano alle anime proprio sotto i suoi occhi. Come poteva tollerare ciò? Egli doveva salvare quelle anime, doveva rivendicare l'onore del suo Dio. Bestemmia e lavoro festivo, balli e osterie, appuntamenti nei sentieri fuori mano e veglie nelle fattorie, canzoni e conversazioni oscene, tutto accumulerà in un'unica maledizione. Darà battaglia simultaneamente a viso aperto contro tutti questi nemici. Per anni, secondo il consiglio di San Paolo, insisterà, riprenderà, minaccerà, esorterà in pulpito, in confessionale, nelle visite, negli incontri, a tempo opportuno e anche inopportuno, niente lo fermerà. Gli anatemi contro le osterie. Come poteva essere occupato servendo Dio devotamente il giorno del Signore mentre l'osteria faceva concorrenza alla Chiesa? Il curato d'Ars pensò che vuotare l'una avrebbe significato riempire l'altra. Nel secolo precedente l'osteria passava per un luogo di libertinaggio. Tale era anche il parere di Don Vianney. Non era forse là che si formavano le coppie per il ballo, là che gli uomini dimenticavano il dovere? Si scagliò subito sul nemico e nella sua convinta indignazione non misurò le espressioni. L'osteria, grida, usando termini di San Giovanni Climaco, senza dubbio per colpire più forte, è la bottega del demonio, la scuola dove l'inferno recita e insegna la sua dottrina, il luogo in cui si vendono le anime, in cui si rovinano le famiglie, in cui si rovina la salute, dove sorgono le liti e dove si commettono i delitti. Come si può immaginare, non vengono risparmiati gli ubriaconi. Con un realismo fremente di collera e con vera eloquenza, il curato d'Ars li apostrofa mostrando loro che scendono al di sotto della bestia più bestia. Se sono trattati così i bevitori, è facile figurarsi quello che dirà degli osti. Don Vianney si scagliò specialmente contro le due bettole che erano proprio al centro del paese. Non stette a badare se i proprietari erano influenti o no in quell'ambiente rurale. Li stigmatizzò senza timore e senza riguardi. Gli osti, diceva, rubano il pane di una povera donna e dei suoi ragazzi, dando da bere a quegli ubriachi che spendono la domenica tutto ciò che hanno guadagnato durante la settimana. Il sacerdote, se non vuol dannarsi, non può e non deve dare l'assoluzione agli osti che danno da bere agli ubriachi la notte o durante le funzioni sacre. Il demonio non tormenta molto gli osti. Al contrario, li disprezza e sputa su di essi. Queste virulente espressioni fecero più impressione sui fedeli presenti che sugli osti, i quali purtroppo si facevano vedere di rado in chiesa. Non importa, il predicatore raggiungeva ugualmente lo scopo perché la clientela andò pian piano disertando gli osti della piazza. Uno di loro venne a dire al suo curato che per lui era la rovina. Don Vianney gli diede del denaro e lo spinse a chiudere l'esercizio. Quell'uomo divenne anzi un eccellente parrocchiano. Quanto al compagno, per un po' di tempo ancora sfidò gli anatemi del curato. Ma vinto anch'egli, chiuse la sua bettola e cambiò mestiere. Così Don Vianney aveva ottenuto che non vi fossero più osterie vicino alla chiesa. Gli altri due, che avevano esercizio in altri posti del paese, finirono anch'essi per scomparire. Quella, diceva il buon parroco di Farenz, Don Dubois, fu una delle maggior vittorie del curato d'Ars. Ma la sete di guadagno rende tenaci. Uno dopo l'altro, sette altri osti aprirono esercizio, ma tutti e sette dovettero chiudere. La maledizione del santo pesava su di loro. «Vedrete», aveva profetizzato il servo di Dio, «vedrete, quelli che apriranno qui delle osterie andranno in malora». Quella lotta senza tregua produsse risultati inattesi. La piaga della povertà diminuì. In Ars, nota il maestro Pertinan, c'erano pochi miserabili. Sopprimendo le osterie, il curato aveva soppresso la causa principale della miseria. Quando più tardi i forestieri affluiranno al paese, sorgeranno modesti alberghi per accoglierli. Ce ne saranno fino a sei nel 1858. Don Vianney non vi si opporrà affatto, anzi farà venire da Macon uno dei suoi giovani parrocchiani, Francesco Pertinan, fratello del maestro, che dal suo padrone, un pasticcere, era costretto a lavorare di domenica. Egli diresse in Ars una locanda ben nota ai pellegrini. La condanna della bestemmia. Se le osterie fossero state luoghi di riunione onesta, in cui s'andava a passare un po' di tempo senza offendere Dio, Don Vianney le avrebbe lasciate vivere e prosperare in pace. Ma gli imperversava la bestemmia, sempre colpevole e peccaminosa. Ciò, per un'anima tanto rispettosa del nome divino, fu qualcosa di assolutamente insopportabile. Ora, in quel piccolo paese, egli purtroppo doveva udire la bestemmia anche sulla bocca di fanciulli che sapevano sì e no il Pater Noster. Quando parlò di questo argomento penoso, lo fece sempre piangendo. Vi tornò sopra spesso nella predicazione e nei catechismi. Minacciava ai bestemmiatori tutti i mali possibili in questo mondo e nell'altro. «Non è uno straordinario miracolo, diceva, se una casa in cui c'è un bestemmiatore non è schiacciata dal fulmine e sommersa da tutte le disgrazie? State attenti, se nelle vostre case regna la bestemmia, tutto andrà in malora». Reprimeva la bestemmia con una severità contagiosa, cercava con tutti i mezzi di ispirarne l'orrore nei fanciulli e nei giovani. Ci ricordiamo, nota Monsignor Combert, di aver sentito un venerando sacerdote raccontarci che nei primi anni di sacerdozio era venuto ad Ars accompagnato da un fanciullo di 12 o 14 anni. Il sacerdote e il fanciullo si confessarono dal santo curato. «Farai la comunione alla mia messa?» disse il sacerdote al fanciullo. «No», rispose quello, «non posso farla». «Perché?» «Il curato mi ha rifiutato l'assoluzione per questa volta perché avevo bestemmiato il nome santo di Dio». Don Vianney fece tanto bene la guerra contro ogni specie di giuramenti ed imprecazioni che anche le espressioni soltanto volgari non temeva in pulpito di ricordarle, a poco scomparvero nel vocabolario di Ars e al loro posto si udì sulle labbra di quei contadini il Pater, l'Ave o parole come questa: «Come buono il Signore, Dio sia benedetto». Contro il lavoro della domenica. La lotta contro il lavoro domenicale richiese al curato d'Ars 8 anni di continui sforzi e non giunse ancora ad abolirlo completamente. La prima volta che parlò di quell'argomento in pulpito, lo fece con tante lacrime, con tale accento di indignazione, con tali fremiti in tutto il suo corpo, che mezzo secolo più tardi c'erano ancora vecchi che se ne ricordavano. Per tutta la vita, del resto, parlando della profanazione dei giorni festivi, ebbe gli stessi accenti di santa collera. «Lavorate, ma quel che guadagnate rovina la vostra anima e il vostro corpo». Se si chiedesse a quelli che lavorano la festa che avete fatto, potrebbero rispondere: ho venduto la mia anima al demonio, ho crocifisso il Signore, sono destinato all'inferno. Quando vedo di quelli che conducono carri la domenica, penso che trasportano la loro anima all'inferno. La domenica è del buon Dio, è il suo giorno, il giorno del Signore. Egli ha fatto tutti i giorni della settimana, poteva tenerseli tutti. Ve ne ha dati 6, se ne è tenuto 1, il 7. Con quale diritto toccate ciò che non vi appartiene? Vedete che la cosa rubata non dà profitti. Il giorno che voi rubate al Signore non vi gioverà sicuramente. Conosco 2 mezzi sicurissimi per diventar poveri: lavorare la domenica e rubare la roba ad altri. I suoi rimproveri, le sue maledizioni portate di casa in casa furono presto riferite ai violatori della legge santa. Del resto Don Vianney si incaricò lui stesso, quando se ne presentava l'occasione, di farlo loro sapere. La domenica, dopo i vespri, lo si vedeva contro la sua abitudine uscire di casa e prendere qualche sentiero. Una domenica di luglio incontrò un uomo che tornava dal suo raccolto. Pieno di vergogna, il contadino, colto sul fatto, tentò di nascondersi dietro il carro. «Amico mio», gli disse con accento di profonda tristezza il curato che lo aveva riconosciuto, «vi siete amareggiato perché avete incontrato me, ma il Signore vi vede sempre, è Lui che dovete temere». La sera, anziché tenere la solita omelia, si scagliò con forza contro il lavoro domenicale. «Andate», gridava con una mordace ironia, «andate nei campi ad aiutare quelli che lavorano in questo santo giorno. Di lavoro essi ne hanno sempre d'avanzo». Parlava spesso così e con tanto ardore che perdeva la voce. Era inutile dopo questo chiedergli dispense al progetto del riposo festivo. Su questo punto era intransigente, irriducibile. Temeva che la dispensa portasse all'abuso anche i migliori. Poi egli aveva una grande confidenza in colui dal quale procedono tutti i beni. Dio non avrebbe protetto il cristiano che obbedisce alla sua legge? In tali occasioni il curato d'Ars si pronunciava col tono e l'autorità di un profeta. Una domenica di luglio il grano, da poco tagliato, era disteso sui campi. All'ora della messa solenne si alza un vento violento che porta all'orizzonte nuvolosi minacciosi. Non è forse lecito correre ai covoni? Il curato non si pronuncia subito, ma al momento della predica promette ai buoni cristiani che lo ascoltano che ci sarà bel tempo, anche più del necessario, in modo che possano raccogliere il frumento in pericolo. Il temporale passò su Ars senza fermarsi. Quella domenica fu seguita da 15 giorni di sole e di azzurro. Vi furono tuttavia casi di vera necessità in cui Don Vianney lasciò fare. Così apprese senza protestare che si continuava di domenica a scavare un pozzo. Così pure, quando il maltempo persisteva e il raccolto minacciava di rovinarsi, non proibiva di rompere il riposo domenicale. Solo che egli non autorizzò mai direttamente nessuno, né in pubblico né in privato. «Fate come volete», diceva a chi privatamente gli domandava, «è affare vostro». Diceva ancora, «sì, altrove i preti possono permetterlo, io ad Ars non posso». Agendo così aveva il suo motivo, voleva formare una parrocchia modello. Presto vedremo come per gli abitanti di Ars la domenica divenne veramente il giorno del Signore. Per la conversione di Ars, la lotta contro il ballo, l'azione diretta contro il ballo. Il modo in cui Don Vianney fece sparire il ballo dalla sua parrocchia è rimasto celebre. Su questo punto riuscì vincitore su tutta la linea, ma la lotta fu lunga. Il ballo era talmente entrato nelle abitudini locali che al santo furono necessari 25 anni per sradicarlo completamente. In alcuni era una specie di ebbrezza e di furore. Simili a pagani che non hanno coscienza delle loro miserie, i ballerini del paese cinicamente proclamavano che il loro divertimento era innocente e quindi permesso. Bisognava strappar loro la benda dagli occhi. Una ragazza che ama il ballo fino ad appassionarsene non può gustare le gioie semplici eppure che non ha lo spirito cristiano. La famiglia, se l'approva, non può essere una famiglia in cui sono tenute in onore le pratiche di pietà. La ragazza e i suoi non avranno una religione seria se non rinunciando alle loro idee e alle loro abitudini mondane. Chi vuole evitare il peccato deve fuggirne l'occasione. Il curato d'Ars, partendo da tali principi, andò dritto allo scopo. Il dolce San Francesco di Sales, pur condannando i balli a causa dei loro pericoli e delle conseguenze possibili, parlando aveva preso delle precauzioni. San Giovanni Maria Vianney, che finirà con l'eguagliarlo in dolcezza, non le prese, perché ritenne la precauzione inutile. Fu spietato. Unì occasione e peccato in un'unica riprovazione. Egli vedeva lontano e, insieme al ballo, attaccava la passione impura da esso alimentata. Di qui i suoi anatemi contro le veglie, come erano praticate allora, e contro i divertimenti che i giovani si permettevano durante il fidanzamento. I contadini di Ars, per passare insieme le lunghe serate invernali, in mancanza di saloni, si riunivano nelle stalle, dove la temperatura è tiepida e là, sotto gli occhi dei genitori, muti e complici, si vedevano rinnovare pratiche già in onore nel paganesimo. L'ignoranza e l'incoscienza scusavano un poco quella povera gente. Comunque, i disordini vergognosi cessarono quando Don Vianney, dall'alto del pulpito, li bollò e stigmatizzò. A proposito del ballo, la resistenza fu estremamente tenace, ed egli dovette conquistare il terreno palmo a palmo. Per più di 10 anni il curato d'Ars dovette insistere incessantemente nelle sue istruzioni. Non c'è comandamento di Dio, spiega, che non venga fatto trasgredire dal ballo. Le madri hanno un bel dire: io sorveglio le mie figlie. Voi sorvegliate il loro vestito, ma non potete sorvegliare il loro cuore. Padri e madri riprovati, andate all'inferno, dove il furore di Dio vi aspetta, voi e le belle azioni che avete fatto. lasciando correre nei riguardi dei vostri figli. Andate, essi non tarderanno a raggiungervi, perché voi avete insegnato loro molto bene la strada. Vedrete se il vostro pastore aveva ragione di proibirvi quelle gioie infernali. Mio Dio, com'è possibile avere gli occhi accecati fino a questo punto, fino a credere che nel ballo non c'è niente di male, mentre esso è la corda con cui il demonio trascina all'inferno tante anime? Il ballo è circondato dal demonio come un giardino è circondato da un muro. Le persone che entrano in una sala da ballo lasciano il loro angelo custode alla porta e un demonio lo sostituisce, per cui presto nella sala ci sono tanti demoni quanti ballerini. Dalla parola il curato d'Ars passò all'azione diretta. Un giorno andò incontro a un suonatore. Pensava che forse togliendo la musica sarebbe riuscito a sopprimere il ballo. L'uomo arrivò al principio del paese col suo strumento sotto il braccio. «Quanto vi pagano per far ballare?» gli chiese Don Vianney. «Non ricordo», dice fratello Atanasio, che aveva sentito raccontare l'episodio, «se il suonatore gli abbia risposto 5 o 10 franchi». Il curato raddoppiò la somma. L'altro se ne andò contento e il ballo non ebbe luogo. La stessa cosa fece con l'oste Bachelard un giorno di festa. «Quanto pensate di guadagnare con la vendita di oggi?» «Tanto, signor curato». «Ebbene, ecco la somma e non fate nulla». L'oste accettò e fu fedele alla condizione. Una domenica stava per cominciare il ballo in piazza, anzi si preparava lo spettacolo molto gustato in paese di condurre l'asino, perché un marito le aveva prese dalla moglie. Improvvisamente il curato esce di casa, non ha ancora attraversato lo spazio tra la canonica e la chiesa, che tutti intimoriti se la danno a gambe e la piazza rimane vuota. «Se la sono squagliata come uno stormo di passeri», raccontava ridendo Don Vianney, e la baldoria fu finita. Le prime convertite. Fortunatamente non tutte le ragazze di Ars andavano pazze per il ballo. In paese c'erano anche di quelle che avevano avuto una buona formazione o che erano di temperamento posato e non erano ancora state raggiunte dal contagio. Don Vianney doveva preservare quella porzione del gregge. Altre, già conquistate dalla smania del divertimento, cominciavano a provarne un po' di vergogna. La Grazia, impetrata dalle preghiere e dalle mortificazioni di un santo, lavorava segretamente in quei cuori. Del resto, la vita del loro curato era per tutti la predicazione per eccellenza. Egli rivelava nella sua persona qualche cosa del Vangelo. «Il nostro curato, si diceva nelle veglie, fa tutto ciò che insegna, pratica quel che dice. Non l'abbiamo mai visto prendere parte a nessun divertimento. L'unico suo divertimento è quello di pregare Dio. Bisogna che ci si provi un po' di gusto se ce ne trova anche lui. Proviamo ad ascoltare i suoi consigli. Egli vuole il nostro bene». Don Vianney, pure scagliandosi contro i disordini, aveva compreso che per rigenerare le anime sarebbe stato ancora più utile formare un'élite. I vespri, un tempo tanto disertati, erano un po' meglio seguiti. Alcune donne ed alcune giovani ogni domenica consacravano alcuni minuti di più alle loro preghiere. Durante la settimana il curato recitava la preghiera verso le 8 di sera con le rare persone che visitavano il Santissimo Sacramento a quella tarda ora. A quelle se ne aggiunsero altre. Una domenica, dopo vespro, alcune ragazze si fermarono in chiesa per confessarsi. Erano senza dubbio anime buone, che però si ignoravano tra di loro. Don Vianney ebbe l'ispirazione di parlare a tutte insieme per unirle in un comune sentimento di pietà. «Ragazze, se volete, reciteremo insieme il rosario, perché la Madonna vi ottenga di far bene ciò che state per fare». Tra quelle ragazze ce n'era una più vivace che leggera. Fu contenta di saper rispondere al rosario. Prima di Don Vianney, il rosario si recitava pubblicamente in chiesa solo una volta l'anno nella festa dell'Annunziazione. La parola del sacerdote ebbe in quella anima pura una risonanza profonda. «Credo proprio», confessava in seguito, «che in quel giorno il signor curato mi abbia cambiato il cuore. Sarebbe stata la prima al divertimento e divenne un modello di virtù. L'apostolo aveva scoperto il buon fermento che avrebbe fatto sollevare tutta la pasta». Questo avveniva l'anno della sua venuta, riferisce Caterina Lassagne, una delle anime che egli formò meglio. Una domenica di festa invitò le sue giovani penitenti ad andare dopo vespro a mangiare della frutta nel suo giardino. Non ci andava neppure lui. Io ebbi l'ardire di seguirla, quantunque fossi giovane. Caterina aveva solo 12 anni. Il curato ci raggiunse per alcuni istanti. Mi ricordo che diceva: «Non siete più contente di quelle che ballano in piazza?» Poi ci invitò in canonica, in cucina, dove ci lesse la vita della mia santa patrona e quindi ci parlò delle cose del Signore. Quelle ragazze e molte altre, trascinato dal loro esempio, dovevano formare in paese il primo gruppo della confraternita del Santo Rosario. Nei riguardi di quelle che rimanevano ribelli ai suoi consigli e alle sue ammonizioni, Don Vianney si mostrava estremamente severo. Partendo dal principio che non si deve assolvere il peccatore occasionario se non rinuncia all'occasione di peccato, il curato d'Ars rifiutò l'assoluzione anche per una sola mancanza, fino alla conversione totale. Egli aveva le sue buone ragioni per fare questo. Un buon numero di suoi parrocchiani, senza essere degli scandalosi, dovettero attendere dei mesi o anche degli anni prima di essere ammessi ai sacramenti. Il dialogo seguente ne è la prova. «Sono rimasta 6 anni senza fare la Pasqua», raccontava nel marzo 1895 a Monsignor Converto una veneranda vecchietta il cui marito confermava il racconto. «6 anni?» «Sì, dai 16 ai 22 anni. Ogni anno andavo dai miei parenti alla festa di Miserie, ballavo un poco, non uscivo mai tutto l'anno, tolto in quel giorno. Ad Ars non si ballava più da tanto tempo, era dal 1835 al 1841. Ma quell'unica scappata che si ripeteva una volta ogni anno non mi permetteva di ricevere l'assoluzione. Però andavate lo stesso a confessarvi. Sì, ma in tutte le feste grandi, ma il curato mi dava soltanto la benedizione. E che vi diceva? Se non cessate di andare al ballo siete dannata. Era molto spiccio. Ma ballavate in altre circostanze? No. Perché allora andavate a confessarvi? Pensavo: se il Signore mi chiama prima di aver ricevuto l'assoluzione, spero che guarderà al mio desiderio di riceverla. Mia madre chiese un giorno al curato se potevo andare a confessarmi fuori di paese. «Come volete», replicò, «ma preferisco che non faccia Pasqua e che non vada a confessarsi fuori». Claudina Trev raccontava che anche lei una volta ballò a uno sposalizio, verso il mese di febbraio. Il curato d'Ars, per assolverla, la fece aspettare fino alla festa dell'Ascensione. Nella sua gioventù, la signora Boutillon dovette a più riprese attendere la soluzione 15 giorni o 3 settimane perché era andata alla fiera e alla festa di Montmerle. Non aveva ballato, ma era andata a vedere quelli che ballavano. Un padre di famiglia che non conosceva ancora bene il suo curato venne a porgli questo semplice caso di coscienza. «Posso condurre mia figlia a ballare?» «No, amico mio». «Ma io non la lascerò ballare». E il curato d'Ars tagliò corto con questa riflessione piena di profonda psicologia. «Oh, ma se non ballerà lei, ballerà il suo cuore». Don Vianney, se su certi punti si mostrò meno rigido coi forestieri che coi suoi parrocchiani, quanto al ballo non mutò in nulla. Persone di mondo, inginocchiate ai suoi piedi, potevano pur dirsi sicure di sé, immunizzate contro il male. Tale peccato non trovò mai benignità dinanzi ai suoi occhi. Non permetteva di prendere parte ai balli di società e neanche di parteciparvi da semplici spettatori. Poco dopo il suo arrivo in parrocchia, i castellani organizzarono qualche ballo in famiglia, ma presto se ne astennero per rispetto alla sua proibizione. «Non conosceva il ballo», dichiara con un po' di fredda superiorità la signora Cristina di Siben, «se non per i disordini che esso genera nelle campagne». «Conosco una persona pia che, obbligata per la sua condizione a prendere parte a qualche festa mondana, fu costretta ad abbandonare il suo confessionale per non dover contrariare la sua decisione». I genitori chiamati in causa. Tali furono in materia di ballo e per tutta la sua vita le direttive del curato d'Ars. Mise un'estrema cura nel formare i genitori su un argomento tanto grave. Inculcò loro profondamente la convinzione che dovevano amare i loro figli con un tenero amore ma fermo, che dovevano dar loro buon esempio, vigilarli e proteggerli. imputava loro le mancanze dei figli e delle figlie. «Voi risponderete delle loro anime come della vostra», diceva loro. «Non so se fate tutto quello che potete. Quello che so è che se i vostri figli si dannano, quando sono sotto la vostra responsabilità, c'è da temere che per mancanza di sorveglianza non vi danniate anche voi. Ma so che non farete un passo di più per compiere i vostri doveri verso i vostri figli. Non vi inquietate per queste cose e quasi avete ragione, perché avrete molto tempo di tormentarvi per tutta l'eternità». Bisogna convenire che tale sferzante ironia era il linguaggio più opportuno. I genitori presero alla lettera i consigli del loro curato. Una domenica, dopo i vespri, due ragazze, due sorelle all'insaputa del padre, così pensavano almeno, andarono a vedere a ballare alla festa di Savignon. Non parteciparono al ballo perché avevano fretta di tornare in paese, ma a casa la loro assenza non era passata inosservata. Il padre prese un bastone e le spolverò energicamente. Uno dei figli Cinier, Antonio, di 20 anni, era andato a ballare in un paese vicino. Tornando a casa molto tardi, per due volte salutò la madre senza ottenere risposta. Già punito da questa inattesa freddezza, si mise a letto. Ma la madre non era soddisfatta e, armatosi di un bastone, andò ad accarezzare la schiena del giovanotto. Dall'anno 1830 il ballo era completamente scomparso dal centro di Ars. Un decreto del sindaco Antonio Mandì non autorizzava più i balli pubblici se non nella parte alta del paese. Per gli organizzatori della festa locale fu una grande umiliazione perché si videro rifiutata la piazza della chiesa. Era giusto vicino il giorno della festa patronale di San Sisto. I giovani di Ars, che ancora tenevano duro contro il loro curato, affrontarono risolutamente il sindaco Mandì e gli chiesero di ristabilire la festa annuale, dove si era sempre fatta. Il vecchio sindaco rispose che, avendo dato parola al reverendo curato, non l'avrebbe ritirata. Ma la faccenda si inasprì. Fu inoltrato appello da parte di quei giovani al sottoprefetto di Trevò. Il sottoprefetto abrogò il decreto del sindaco di Ars, il quale dovette cedere di fronte alla volontà del superiore. Giunse il giorno della solennità di San Sisto e quindi anche della festa. Quella domenica, dopo mezzogiorno, alle note di un suonatore, arrivarono ballerini inghirlandati cantando e saltando. Quante rumorose arguzie all'indirizzo del prete e del sindaco. Ma ecco che cessano i ritornelli e i giovanotti diventano pensierosi. Dove si sono cacciate le ragazze? Sotto i noci non ci sono che due o tre serve venute dalle cascine di Ars e qualche forestiera. Le ragazze della parrocchia sono entrate in chiesa per i vespri la benedizione. Il ballo si trascinò senza brio. Quando suonò la preghiera della sera, il primo magistrato del paese, che in previsione di qualche disordine aveva cinto la sua sciarpa, non dovette intervenire perché il piccolo gruppo di festaioli si era già disperso. La chiesa si era riempita di fedeli e il curato tenne l'abituale breve omelia. Piangeva e con lui piangevano anche i presenti. Parecchi di quei giovani senza testa compresero la loro scempiaggine, vedendo le loro mamme e le sorelle tornare dalla preghiera con gli occhi rossi per le lacrime. Si fecero iscrivere in qualcuno delle confraternite parrocchiali e non pensarono più al ballo. Ormai, durante i tranquilli pomeriggi domenicali, nella piazza della chiesa si vedranno solo fedeli, che vanno ai vespri o al cimitero, e dopo le funzioni innocenti giochi di bocce e di birilli. I giovani del paese che ancora si intestardiranno a voler ballare non troveranno più ballerine del paese, tutt'al più racimoleranno qualche povera serva. «Andate a cercare», diceva trionfalmente il curato d'Ars, «andate a cercare la latar ragazza nei luoghi di divertimento, al ballo o in cattive compagnie. Vi risponderanno: è un po' di tempo che non la si vede più. Credo che se la volete trovare dovrete andare o in chiesa o a casa sua. Se non la trovate in casa, andate in chiesa e la vedrete testimoniare a Dio la sua riconoscenza per averla tanto cambiata. Ha la modestia in volto». Irritati nel vedere le ragazze di Ars abbandonare il ballo per la chiesa, i libertini del paese e dei paesi vicini si vendicheranno su Don Vianney e presto vedremo come. Ma che fare senza ballerine? si organizzarono riunioni clandestine nei cascinali più sperduti, ma il santo, avendolo saputo, tuonò tanto forte dal pulpito che a cominciare dal 1832 nel territorio della sua parrocchia non si ballò più. La vittoria però non fu ancora del tutto completa. Si organizzarono degli appuntamenti per le feste o per i balli dei paesi vicini e, lontani da ogni controllo, parecchi pensarono di potersi abbandonare al loro divertimento preferito. Anche alcune ragazze di Ars si lasciarono trascinare. Don Vianney, senza troppa fatica, lo venne a sapere. Deciso a non deporre la scure, se non il giorno in cui fosse strappata anche l'ultima radice del male, rincarò la dose. Dio ispira ai suoi santi atteggiamenti che spesso escono dall'ordinario. Siccome era necessario parlar chiaro per farsi comprendere, il curato d'Ars prese allora la risoluzione di rifiutare l'assoluzione, sino a seria promessa di emendamento a chiunque avesse ballato anche una sola volta. Il trionfo divenne completo e definitivo solo dopo una missione tenuta in parrocchia nel 1847. Se qualche libero pensatore, qualche forestiero minacciò in seguito una o due volte di far risorgere la festa di San Sisto, non ebbe fortuna. Il conte di Garez, eletto sindaco nel 1838, prese a cuore l'affare e spense, e per sempre, le piccole trame. Molto più tardi, verso il 1855, poiché i parrocchiani di Ars avevano ricominciato a frequentare le fiere più del necessario, un giovane ecclesiastico fu in grado di constatare quale forza Don Vianney sapesse dare alle sue parole, quando i disordini minacciavano di ricomparire. Una sera, racconta Don Belletier, l'ho sentito scagliarsi con veemenza contro la fiera di Bellefranche, dove la gente aveva l'usanza di recarsi, attratta da divertimenti profani. L'uditorio era atterrito. Infine gli sembrò necessario dare un ultimo severo avvertimento a proposito di certi divertimenti apparentemente innocenti, ma che il santo giudicava indegni dei suoi parrocchiani. Il 9 febbraio 1858 erano passati un giorno dopo l'altro 40 anni dall'arrivo di Don Vianney in paese. Giovanni Battista Mandì sposava sua cugina Claudina Trevè. Ora, qualche settimana prima, alcuni uomini non più tanto giovani, forse dimentichi dei vecchi rimproveri fatti ai loro padri, tentarono di far risorgere l'usanza abolita delle poule. Andarono dai Mandì e dai Trev, requisirono i migliori capi di pollame e, secondo l'antica usanza locale, un bel sabato sera ci fu un gran banchetto in onore della futura coppia. Il banchetto si prolungò molto nella notte. Don Vianney, che allora aveva 72 anni ed era sfinito dalle fatiche e dai digiuni, la domenica mattina a predica ritrovò gli accenti dei tempi di lotta per manifestare alla sua popolazione e ai colpevoli già pentiti tutta la sofferenza che gli aveva causato quella loro sconveniente puerilità. Prossimamente ci sarà un altro matrimonio in parrocchia, concluse il predicatore indignato. Ricominciate e vedrete che io me ne andrò. Non ricominciarono. Il curato d'Ars, arbitro della moda. La moda sconveniente va di pari passo coi piaceri corruttori. Ora, a giudicare da certi discorsi di Don Vianney, molte persone, al tempo della sua venuta, violavano le leggi più elementari della modestia. Si indigna contro di esse ed è irritato, anche perché vede i genitori idolatrare le figlie e spingerle alla civetteria. Bisogna sentirlo fustigare quella madre che non ha in testa altro che la sua ragazza e che è più preoccupata che ella abbia il cappellino dritto che di chiederle se ha dato il cuore a Dio. E dice che non bisogna essere selvaggi, che bisogna essere gentili con tutti se vuole far delle conoscenze e sistemarsi. E la ragazza cercherà presto di attirare gli occhi della gente. Coi suoi ornamenti ricercati e indecenti farà capire a tutti di essere uno strumento di cui si serve l'inferno per perdere le anime. Solo dinanzi al tribunale di Dio conoscerà quanti peccati ha fatto commettere. Generalmente le madri di famiglia compresero abbastanza presto il loro dovere. Del resto il loro curato le aiutò a compierlo o col rifiutare l'assoluzione alle persone scorrette o precisando lui stesso la moda. Si trattava di cosa delicata, ma anche qui il nostro santo aveva il suo scopo profondo. Voleva che i suoi parrocchiani mirassero a un ideale di perfezione che sapeva erano in grado di raggiungere. Per questo si permise di entrare in particolari che a prima vista potrebbero sembrare puerili. Le donne e le giovani avevano adottato un'acconciatura dei capelli abbastanza elegante che metteva a risalto la capigliatura. Don Vianney le obbligò ad abbandonarla per sostituirla con berretti che nascondevano meglio i capelli. A Martha Mead, che ha una bottega vicino alla chiesa, consiglia di mutare il suo cappellino perché non gli sembra abbastanza semplice. «Sembriamo delle vecchiette», diceva Claudina Trev, che tuttavia non era una civetta. «Un giorno», dice ancora Martha Mead, «mi incontrò che ero vestita un po' meno peggio del solito. Indossava una veste di mussolina a colori sgargianti. Anziché dirmi come al solito «buongiorno, figlia mia», mi fece un inchino profondo aggiungendo «buongiorno, signorina». Ebbi molta vergogna. La piccola Gianna Lardette era fiera del suo bel collettino nuovo. «Mi vuoi vendere il tuo colletto?» le chiese ridendo Don Vianney. «Ti do 5 soldi». «Che ne volete fare, signor curato?» «Lo voglio mettere al mio gatto». Non c'è bisogno di dire che non avrebbe tollerato nella sua chiesa scollature o braccia nude. Non lo permetteva né alle signore né alle popolane. In una visita al castello notò per la prima volta il ritratto di una dama in abito da sera. «Si direbbe che sta andando alla ghigliottina», osservò indicando col dito quel quadro di famiglia. La padrona di casa, la contessina di Ars, comprese la lezione e tolse il quadro. Sulla fine della sua vita farà dell'ironia sulle crinoline anche durante i catechismi. «L'imperatore ha fatto molte cose belle, ma ne ha dimenticata una. Avrebbe dovuto fare allargare le porte per lasciar passare le crinoline». Nonostante ciò, molte persone di Ars usavano quello strano costume. Don Vianney non insistette, trovandole solo ridicole. Del resto, quelle rare parrocchiane scomparivano la domenica e i giorni di festa nella massa delle forestiere, più ossequienti ai capricci della moda dell'epoca. Per 30 anni i pellegrini di Ars poterono ammirare in chiesa per le strade, per i sentieri di campagna, le donne e le ragazze di paese composte e modeste come monache.